Carissimi ragazzi e ragazze all'ascolto, Ave Maria a tutti e ben ritrovati dopo una più o meno lunga pausa di dirette estiva sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. E sono quasi, credo, 3 settimane che non riusciamo più ad andare in diretta per vari fattori legati alle contingenze, diciamo, estive. Se Dio vuole e se la Madonna ci aiuta, da oggi riprenderemo regolarmente, ecco, questo ultimo tratto del cammino verso la conclusione di questo lungo ciclo di catechesi dedicate ai 10 comandamenti. Nella puntata precedente, che è stata l'ultima di metà agosto, se ricordate, abbiamo concluso, ecco, con la tematica del peccato impuro solitario e dell'idolatria del corpo l'ampio capitolo dedicato al sesto comandamento. Ora ci attende un nuovo capitolo, forse non così ampio perché le specie di peccato sono leggermente di meno, ma non meno importante sotto certi aspetti del settimo comandamento, non rubare, che oggi speriamo di poter introdurre. Con una notazione, se mi permettete subito, ironica, questo che è il settimo comandamento, nella nostra mentalità e cultura contemporanea, più di qualche volta sembra essere diventato il primo, perché pare che oltre a non rubare non esistano altri comandamenti e se uno, Dio non voglia, ruba, poi dovremo metterci d'accordo e cercheremo di determinarlo bene di cosa significa rubare, sembra che commetta il più grande delitto che esista sulla faccia della terra, ben inteso, si tratta di un comandamento, ma si tratta del comandamento numero 7. Si possono commettere tantissimi peccati mortali, ovviamente, su questa specie, ma vi accenno subito che la maggior parte dei peccati mortali sono previsti dalla fattispecie, dalle fattispecie più note, più comuni dei reati da codice penale. Viceversa, ci sono alcuni reati, da codice penale attuale che, come vedremo, così. E cercheremo anche di comprendere una distinzione fondamentale tra legge civile e legge morale, ci sono alcune fattispecie penalizzate o non penalizzate dall'ordinamento civile, perché alcune sono, come dire, trasgressioni di tipo squisitamente amministrativo, altre invece sono addirittura penalizzate come reato, che però da un punto di vista morale in senso stretto, se riusciremo a capire bene alcune cose, non possono essere considerate alla stregua di peccati gravi. Questo dobbiamo sempre tenere presente, che specialmente mi sembra di aver dedicato qualche puntata negli articoli precedenti, oggi non è infrequente con la laicizzazione degli ordinamenti giuridici, con il cosiddetto positivismo giuridico, le varie teorie delle norme fondanti di giuristi completamente atei, e che hanno rinnegato, diciamo così, il legame del diritto con la legge naturale, non si può più assolutamente fare nostro il principio tradizionale. Il principio tradizionale diceva che la legge dello Stato, l'ordinamento giuridico, garantisce il minimo etico, cioè non copre tutto l'arco della legge morale, perché la legge morale è più ampia della legge giuridica, però sicuramente dà una base etica fondamentale e inalienabile al comportamento dell'uomo. Oggi purtroppo capite bene, perdonatemi queste premesse, che non è così, perché un gravissimo peccato contro il quinto comandamento, come l'aborto, è perfettamente consentito dall'ordinamento giuridico non solo italiano, ma praticamente di tutte le legislazioni del mondo. E pare purtroppo, ahimè, che anche l'Irlanda, che è l'ultimo baluardo mondiale antiabortista, almeno qualche tempo fa mi era giunta qualche notizia che ci sono dei fermenti per portare questa piaga anche lì. E quindi capite, similmente, il sesto comandamento, una volta era reato del codice penale l'adulterio, oggi sembra che sia quasi reato, questa è una battuta ironica chiaramente, non commettere adulterio. Una volta c'era reato di codice penale la bestemmia, adesso è stato depenalizzato. E così come una volta era assolutamente proibita dalla legge civile il divorzio, così come nella legge canonica era consentita solo a certe condizioni la separazione. Quindi questo per farvi comprendere come ci sono delle cose che la legge consente e che per noi sono peccati mortali. Ci sono per noi, cioè per la legge di Dio, per la legge morale. Vedremo che, a proposito di questo comandamento, ci sono delle cose che sono sanzionate anche penalmente dalla legge dello Stato e che però da un punto di vista morale non costituiscono ipso facto peccato mortale. Quindi capite che è sempre molto molto importante la formazione. Vi dico subito che su questo, su questa materia ascolteremo delle sorprese. Sorprese che quando anch'io curavo un po' la mia personale formazione non mancai di registrare come tali, ecco, perché nessuno di noi è nato imparato e quindi mano a mano che ci si forma, che si acquistano quindi determinate competenze, a volte si rimane sorpresi perché tanti luoghi comuni o del pensiero personale o della coscienza sociale diffusa non sempre sono confermati dall'avallo di ciò che poi formandosi si viene a conoscere. Allora, questa introduzione è un pochino molto generale, adesso scendiamo un pochettino più particolare introducendo la tematica del settimo comandamento. Questo comandamento, come tutti i comandamenti, come dire, è finalizzato e ordinato alla gestione di una realtà fondamentale dell'esistenza umana, cioè il denaro e i beni materiali ricevuti in dono da Dio, che sono comunque elementi essenziali e costitutivi della vita terrena. I primi tre comandamenti, ricordiamo, regolano il rapporto con Dio, il quarto il rapporto con i genitori, il quinto il rapporto con la vita, il sesto i rapporti, diciamo così, in senso ampio, familiari o comunque interpersonali nella dimensione uomo-donna, e sul settimo regola il rapporto con i beni. Vedremo che poi l'ottavo comandamento, fondamentale per ordinare il nostro rapporto con la virtù della veracità e anche per consentire un modus vivendi improntato al bene, perché se si cominciano a diffondere menzogne e calunnie tutto diventa più complicato, no? Mentre gli ultimi comandamenti, caratteristiche chicche, diciamo così, tipiche della legge di Dio, e vanno anche a scandagliare quali sono i nostri pensieri, i nostri desideri consentiti per impedire che alcuni peccati affiorino, diciamo così, e passino all'opera, prevenendoli anche, diciamo così, nel loro insorgere, cioè a livello di pensiero e di desiderio consentito, ma di questo ci occuperemo a suo tempo. Quindi queste cose che vi ho accennato sono esemplificazione del grande San Tommaso d'Aquino, no? Quindi i primi tre comandamenti oggetto il bene sommo, cioè Dio, il quarto il bene della famiglia, il quinto il bene della vita, il sesto la santità del corpo, il settimo i beni materiali, l'ottavo il bene morale dell'onore e della veracità. Quindi si tratta di un comandamento che coinvolge, molto importante, che coinvolge tante realtà fondamentali e su cui specialmente negli ultimi secoli, negli ultimi due in particolare, tanto si è sdottoreggiato, tanto si è pontificato e tanto si è scritto e tanto si è fatto, tra l'altro, creando anche delle situazioni a livello politico, nazionale e internazionale di forte cambiamento rispetto al passato. Dobbiamo pensare che volenti o nolenti, ci sono tutta quanta la Cina, adesso non so se sono 1 miliardo o 2 miliardi di persone, non mi ricordo la cifra precisa, che sono tuttora adesso sotto il pieno regime di comunismo reale, quindi non di socialdemocrazia o di sinistra centrosinistra o sinistra moderata, insomma, quindi sono comunisti in senso stretto. E il comunismo non è altro che un'analisi fondamentale fatta a suo tempo dai filosofi ideatori di questa pessima e perniciosa ideologia, che partiva proprio da alcuni capisaldi fondamentali come il problema della proprietà privata, il problema dei mezzi di produzione nell'industria, elaborando poi a partire da una certa, come dire, lettura di questi fenomeni una vera e propria ideologia, quindi con tanto di religione laica e con tanto di progetto e di fine, cioè distruzione del cristianesimo e costruzione di un utopico paradiso sulla terra fondato sulla giustizia sostanziale e sociale assoluta, che poi non si è mai realizzata perché ci sono sempre poi qualche classe di privilegiati che nel feudalesimo erano i signori feudali, e nel medioevo erano i nobili e poi nei regimi comunisti sono i dirigenti del partito, quindi cambia cambia il nome, cambiano le forme, ma alla fine il cuore dell'uomo è sempre lo stesso nonostante tante utopie. Quindi c'è il problema della proprietà privata, e attenzione che su questi punti, mi permetto di premettere, mai come oggi in certi cattolici c'è tanta confusione, nel senso che c'è un certo senso di, come dire, quasi di soggezione e quasi di sentirci in debito nei confronti di certe posizioni proprie del mondo derivante dalla sinistra, che vengono sbandierate come assolutamente cristiane, cioè su cui non ci piove, insomma, non è neanche materia di discussione. Vedremo che materia di discussione è tanto e come, ecco, e lo vedremo luce del magistero della Chiesa, di fior di papi come Leone XIII, come Giovanni Paolo II, come Paolo VI, che hanno trattato di questi argomenti, certamente non alla luce delle mie personali opinioni, che è legittimo avere, ma che ovviamente sono opinioni personali, che può avere qualunque figlio di Dio e anche un ministro di Dio. Quindi la proprietà privata, quindi la destinazione universale dei beni, che sembra essere un principio confliggente con la proprietà privata, e invece vedremo che non lo è. La virtù cardinale della giustizia nella gestione dei rapporti patrimoniali, perché i debiti vanno onorati, i debiti vanno pagati. Vedremo che su questo comandamento vige la giustizia commutativa proprio in senso stretto, quindi bisogna realmente pagare i propri debiti, pagarli fino all'ultimo centesimo, pagarli bene, pagarli subito e pagarli tutti. Invece, vi faccio subito una premessa, quando parleremo di un argomento, l'argomento degli argomenti, in quest'estate non si è parlato di altro che di questo, cioè delle tasse, vedremo come le tasse, secondo la dottrina sociale comune, diciamo così, del cristianesimo, non è un tipo di problematica collegata al settimo comandamento, ma al quarto. Perché il potere di tassazione da parte dello Stato non si fonda sul rapporto tra pari, cioè il fatto che io paghi le tasse allo Stato non è come pagare un prestatore d'opera di servizio, un'impresa che mi restaura la casa, perché l'impresa che mi restaura la casa è un mio pari e il fondamento del fatto che io lo pago è che mi ha prestato un servizio. Ecco. Invece lo Stato agisce nei miei confronti in un rapporto di autorità, quindi vi ricordate quando parlavamo del quarto comandamento, onora il padre e la madre, parte dal padre e la madre e si estende a tutti i rapporti di autorità, compreso la potestà di imporre dei tributi, attenzione, potestà di imporre dei tributi, vi ricordate quello che dicemmo del rapporto genitori-figli, entro i limiti della giustizia, non di imporre tributi folli. E con questo che già sto accennando ad alcune questioni, o tassazioni pazzesche, d'accordo? Io ho sentito 4-5 mesi fa a un telegiornale, uno dei più obiettivi a quello che dicono in giro, che ha appena compiuto 10 anni, con tanti auguri del presidente Napolitano, che è Sky TG24, cioè alcuni imprenditori del nord Italia sono tassati al 70%. Cioè, allora, qui siamo proprio in regime di, come dire, palesi, insomma, ingiustizie. Poi uno, come si reagisce a questo tipo di dinamica è un altro discorso, ma quantomeno denunciarla come tale si può e si deve. Oppure la legge che è appena entrata adesso in vigore, e che è stata, insomma, segnalata anche da alcuni ambienti vicini alla cristiana, al cristianesimo, cioè il fatto che lo Stato può violando le norme sul segreto bancario e sulla privacy, andare a controllare i movimenti del mio conto corrente personale senza che io lo sappia, senza darmi una comunicazione, cioè chiedo alla banca dammi la lista dei movimenti del conto di Leonardo Pompei e quelli glielo devono dare e non mi comunicano nulla per andare a verificare se il mio giro, come dire, dei soldi è compatibile con la dichiarazione dei redditi che io faccio. Questo non lo so se quanti di voi, perché l'altro giornale l'hanno detto, ma questa notizia non ha fatto tutto questo grandissimo giro del mondo. Adesso, questa è, per quanto riguarda, questa è una mia opinione personale, cioè, questo non è uno stato di polizia tributaria, ma neanche nei vecchi regimi sovietici c'era una cosa di questo genere. D'accordo? Perché se io, immaginate un povero prete, a me, non lo so, arriva uno... Non è successo, ma potrebbe succedere. Mi fa una donazione di 30.000 euro, mi fa un bonifico sul mio conto, mi dà 30.000 euro e mi dice: padre, ne dai 10.000 ai poveri, ne dai 10.000 alla chiesa, ne dai 10.000 alle missioni. Se mi fanno adesso un'operazione di questo genere, mi potrebbero mettere in difficoltà. Ma questo è assolutamente fuori del mondo, questo qui, capite? Ecco, quindi bisogna fare estrema attenzione, così come tutte quante le problematiche che abbiamo visto in questi giorni, adesso sembra che hanno abolito l'IMU, è giusto o no che un povero disgraziato fa tanti sacrifici per comprarsi la casa, il mutuo, e poi su una cosa che ha acquistato e ci ha già pagato le tasse quando l'acquistava, perché comunque deve andare a pagare le imposte, il regime, come si chiama, l'ufficio del registro, e l'IVA comunque che paghi su... E devi andarci a pagare ogni anno per che cosa? Per il fatto che quella casa è tua, tu devi pagarci i soldi ogni anno. Cioè, ma allora, su queste materie bisogna fare estrema attenzione, perché, vi ripeto, circola tanto qualunquismo e tanti tipi di discorsi. Qui bisogna avere chiari, e cercherò di farlo in questi incontri, alcuni principi, da cui chiaramente discendono alcune norme da osservare, e da osservare fino alla fine. Però sia i principi che le norme da osservare devono essere ben compresi, su questo argomento, ripeto, bisogna discernere e distinguere la morale dalla legge dello Stato, specialmente in questi tempi in cui, ripeto, ho iniziato con una notazione ironica, sembra che il settimo comandamento non solo sia il primo, ma sia l'unico comandamento, perché non uccidere non esiste, la famiglia non esiste, Dio non esiste, gli atti impuri non esistono, e la calunnia, non parliamo della calunnia e della diffamazione tra social network, giornali e telegiornali, che uno si è messo in mezzo alla strada con niente, non nel decimo comandamento, figuriamoci che cosa gli importa a uno se uno usa uno sguardo impuro che con tutta la pornografia che gira, o che uno desidera la cosa da altri, figuriamoci. Quindi sembra che oggi ci sia solo un comandamento, o uno: non rubare. Su quello sono tutti d'accordo, potete fare tutti quanti i sondaggi, le cose, perché i politici non vanno bene perché rubano. Non è che i politici non vanno bene perché fanno leggi immorali, no, quello non fa assolutamente nulla, rubano. Io spero che voi ragazzi mi stiate capendo bene, anche gli ascoltatori, no? Il senso di quello che sto dicendo, non sto certamente incitando a rubare o a varie forme di evasione fiscale o cose di questo genere, però questo argomento, ripeto, perdonatemi la prolissità dell'introduzione, va ben compreso e va anche un po' ridimensionato. Ecco. Allora, di tutti questi argomenti, da un punto di vista rilevante per noi, cioè che è il punto di vista del cristianesimo, si occupa una parte particolare, una branca particolare della morale, che ormai da circa un secolo e mezzo a questa parte si è configurata come una disciplina a sé stante, che si chiama la cosiddetta dottrina sociale della Chiesa, che ha cominciato ad assumere una sua configurazione autonoma in concomitanza con la rivoluzione industriale e con la proposizione delle prime tesi comuniste, contro le quali ebbe modo di scrivere, cominciando a puntualizzare alcuni principi fondamentali del modo cristiano di approcciarsi a queste tematiche, il grande pontefice Leone XIII con l'enciclica Rerum Novarum del 1891. Facciamo come sempre una piccolissima pausa per l'Ave Maria, che sono le 17, e poi cominciamo a riprendere l'argomento a partire da qui. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, Leone XIII con questa grande enciclica, che è una pietra miliare, diciamo così, nella storia del magistero morale e in particolare, appunto, è considerata, come dire, l'enciclica di fondazione della dottrina sociale della Chiesa. Come accennavo, ebbe modo di entrare nel merito e nei particolari, pur rimanendo fondamentalmente sul piano dei principi. E dentro le nuove problematiche suscitate dalla rivoluzione industriale e dalla famosa questione operaia, che era stata monopolizzata e strumentalizzata dal movimento comunista, cioè voi sapete che la grande, come dire, il grande successo del comunismo è stato, come dire, anche causato da gravissime ingiustizie sociali che furono perpetrate. Tutti penso che lo sapete. Giovanotti, mi raccomando che a scuola si studi bene tutto, nel particolar modo la storia, e dalle gravissime ingiustizie perpetrate agli albori della rivoluzione industriale, con orari di lavoro folli, 12, 13, 14 ore al giorno, bambini sfruttati, salari bassissimi, quindi sta povera gente, e con questo nuovo, insomma, modus operandi, insomma, ritmi massacranti, insomma, il rapporto con le macchine che non c'era mai stato. E questi, praticamente i pionieri del comunismo, scesero in campo come gli amici degli operai e i difensori della giustizia contro i soprusi dei ricchi e dei potenti, monopolizzando di fatto la questione. E qui forse è una delle circostanze in cui, ahimè, purtroppo per una sciagurata contingenza, la Chiesa si trovò un po' impreparata a scendere subito in campo, e l'intervento del 1891 fu efficace, ma a detta di qualche commentatore, osservatore, forse un po' tardivo, nel senso che abbiamo chiuso la stalla quando i buoi erano già usciti, perché questi stavano già, come dire, monopolizzando, diciamo così, i moti proletari di tutta l'Europa, insomma, di mezzo mondo, e di lì a poco, 20 anni dopo, avrebbero cominciato a imporsi all'attenzione del mondo intero con la famosa rivoluzione d'ottobre del 1917 in Russia. Quindi, comunque, da quel momento, tardivo o non tardivo, l'intervento della Chiesa si prese in seria considerazione questo aspetto fondamentale, e amplificato dalla mutata cultura sociale e dai mutati costumi imposti da una nuova forma di organizzazione, non solo economica, ma poi anche chiaramente sociale e politica della società, cominciando a intervenire in merito. Purtroppo in quest'area, come accennavo, si sono avute anche delle derive. Lo accenno subito, prima di farlo più avanti, nel senso che nel secolo scorso, tra le varie correnti teologiche, soprattutto la seconda metà del XX secolo, che hanno prodotto tanto male e i cui effetti ancora non sono tutt'altro che finiti, specialmente in alcune zone dell'America Latina, è stata la cosiddetta teologia della liberazione. Molto diffusa e che ha trovato l'emblema anche in alcuni personaggi, non vorrei fare nomi, ma alcuni molto molto noti, tra l'altro recentemente passati a miglior vita anche nell'ambito di qualche sacerdote vivente in Italia. Praticamente la posizione di questi teologi, volendo estremamente semplificarla, era una sorta di applicazione dei principi del comunismo al cristianesimo, o se si preferisce, una sorta di lettura appiccicaticcia, chiaramente, no? Eteronoma, avrebbe detto probabilmente il filosofo illuminista Immanuel Kant, una lettura cristiana del comunismo, o una, peggio ancora, giustificazione in chiave cristiana di alcune posizioni del comunismo, in modo per particolare quello che riguarda la lotta di classe, e il fatto che probabilmente, che praticamente il problema dei problemi, anche della Chiesa, su cui bisogna intervenire, è lo sfruttamento dei potenti e dei ricchi a danno dei poveri. La Chiesa servirebbe soltanto a questo, ma state attenti però, ragazzi, perché guardate anche oggi, adesso faccio subito alcune puntualizzazioni. Quando la Chiesa fa qualcosa in campo sociale, o quando alza la voce, come deve, per carità, contro le ingiustizie sociali, contro le questioni di questo genere, sono tutti quanti amici della Chiesa. Ma quando però tratta di qualche tema etico, dice no all'aborto, dice no al divorzio, dice no alle unioni di fatto, dice no alle unioni gay, dice no al preservativo, vi ricordate quel poveraccio di Benedetto XVI, quella mezza cosa, che succede? Puff! La fine del mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo laico vuole che la Chiesa interpreti la sua missione solo in questa chiave. Cioè, tu Chiesa, c'hai ragione di esistere se sposi la causa dei poveri, la causa delle ingiustizie dei potenti contro quindi se fai, come dire, una sorta di pressione social-politica contro le ingiustizie sociali del mondo. Ah, se fai questo ti diamo tutti quanti gli applausi che vuoi, forse ti diamo pure un pochino di soldi per aiutarti a farlo. Ma se esci da questo punto, per favore, non ti intromettere. Perché lo Stato è laico e il resto delle questioni le decidiamo noi e tu tienitele per te e sono le tue personali, opinabili posizioni confessionali. Sapete che c'è sempre possibile intervenire telefonicamente, c'è lo 0825 444 391, quindi se qualcuno vuole dare un pochino di luce, che c'ha un altro modo di vedere la situazione o non condivide questa impostazione, può tranquillamente chiamare anche per illuminare anche me, però a me sinceramente pare questa la situazione. E torniamo al punto da cui sono partito, cioè questo è l'unico comandamento che esiste oggi, cioè percepito come tale rilevante dal punto di vista etico, d'accordo? Rilevante dal punto di vista etico. Non esiste nessun'altra cosa. Qual è il peccato dei peccati oggi? Che non paghi le tasse o che rubi? Ripeto, cose in se stesse non da farsi, d'accordo? Nessuno mette in discussione che questi siano comportamenti negativi, ma questi sono comportamenti negativi meno gravi di altri più gravi. Cioè, l'aborto è più grave dell'evasione fiscale o il divorzio è più grave di non pagare tasse, ok? Che un politico appoggi una legge iniqua e la voti è più grave che se si mette in tasca i soldi pubblici. Non se li deve mettere in tasca, mettersi in tasca i soldi pubblici è una cosa gravissima, ma è più grave appoggiare una legge immorale davanti a Dio. Allora, dentro quest'ottica, ragazzi, di tutto abbiamo visto. Allora, diamo i primi principi introduttori. Allora, i beni materiali sono beni, non sono mali. Che tu dici? Scopri l'acqua calda. Non tanto, non tanto. Non è una ovvia e inutile tautologia. Il denaro e i beni materiali sono in se stessi dei beni. Non i più alti, non i più importanti, non i più elevati, non i più indispensabili, ma sono dei beni. Gesù ha parlato della ricchezza nel Vangelo come di un pericolo, non come di un male, e non ha fatto nessuna equazione ricchi uguale grandi peccatori, insalvabili, peccatori poveri uguali e, come dire, lascia passare automatico il paradiso perché saranno sempre buoni, santi e semplicemente sfruttati da quelli che si mangiano tutto alla faccia loro. Non c'è questo nel Vangelo. Gesù ha elogiato la povertà, anzitutto di spirito, d'accordo? Ma un povero materiale, per essere beato, deve vivere la povertà evangelica, cioè contentarsi della sua condizione di povertà, non invidiare i ricchi e non mandargli gli accidenti, dici quello c'ha un sacco di soldi e io non c'ho niente, posso andargli tutti in medicine, perché sapete l'espressione che si usa magari in forma ironica, scherzosa, senza rendersi conto della gravità di un'affermazione del genere, no? Ma se uno lo dice una cosa di questo genere con odio, con rancore, ma certamente non sta nella condizione di beatitudine. Si potrà avere un sentimento di compassione, di comprensione, di misericordia, perché una persona magari che sta nell'indigenza è esasperata, ci vuole mille circostanze attenuanti, ma se vive così la sua condizione, non vive in condizione di beatitudine. E ci sono dei ricchi, c'erano, ci sono sempre stati, il miglior amico di Gesù. Da quello che ci dicono i Vangeli, il Vangelo di San Giovanni, era Lazzaro, ma Lazzaro era figlio del governatore della Siria, di Teofilo. Il governatore della Siria era un pezzo grosso, avrebbe potuto essere, adesso lo dico grande, qualcuno si arrabbia, Avrebbe potuto essere, da un punto di vista economico, come il figlio di Berlusconi. Immaginatevi se Gesù oggi fosse amico del figlio di Berlusconi, che succederebbe? La fine del mondo. Ma Gesù sarebbe amico del figlio di Berlusconi se il figlio di Berlusconi fosse una persona, cosa che potrebbe essere perché io non lo conosco, adesso è un momento contingente, quindi non lo voglio escludere, se fosse una persona, come dire, buona, retta e integra, sicuramente gli amici di Gesù erano delle sante persone, ma Lazzaro c'era un sacco di soldi, tant'è vero che la sorella Maria. Se uno legge il Vangelo, quando il sabato prima della passione spacca un vasetto di alabastro per ungere Gesù del valore di 300 denari e il signor Giuda, il grande pseudo e falso moralista dell'epoca, che mi assomiglia tanto a certi signori che circolano oggi, si straccia le vesti, dice: Uè, 300 denari. Ma sai quanti poveri potevamo sparare? Guardate che non c'è tutti i torti, eh? Perché tu pensare che un denaro era la paga quotidiana di un operaio. Quindi 300 denari vuol dire che un operaio prendeva 30 denari al mese. 300 denari vuol dire 10 mesi di stipendio. Quindi sarebbe l'equivalente di oggi. Quanto potrà essere? Quanto prenderà al mese un operaio? Facciamo 1.500 euro lordi? Vuol dire che un denaro era 50 euro. 50 per 300 fa 15.000 euro. Cioè, quella signorina poteva permettersi di prendere un vasetto da 15.000 euro e di romperlo per pungere il capo di Gesù. Quindi non erano dei poveracci. C'è qualcuno di voi che dentro casa c'è una boccetta di profumo dal valore di 15.000 euro? Per poterti permettere una cosa del genere, certamente non può essere uno che campa di stipendio, il figlio di un operaio, no? Lo capite? Quindi vuol dire che Lazzaro era miliardario, era il miglior amico di Gesù. Quindi non è che il ricco, per il fatto di essere ricco, è il demonio incarnato, perché se tocchi i soldi sei il demonio. Chi l'ha detto questo qui? Chi l'ha detto questo? Allora, il problema fondamentale non è essere ricco o essere povero, ma il rapporto che si ha con le ricchezze. Quindi la ricchezza di per sé stessa non è una cosa in visa a Dio, o non è necessariamente foriera o apportatrice di corruzione, di malaffare o di disonestà. Non lo è. Necessariamente. Certamente a causa della condizione dell'uomo decaduto, della sua debolezza e per il fatto che comunque i soldi rappresentano, lo vedremo, un grande, come dire, strumento strumento, diciamo così, di soddisfazione di moltissimi desideri, di moltissimi piaceri, una fonte di grande sicurezza personale, di grande potere e prestigio sociale, eccetera, eccetera, certamente possono far venire, come dire, le vertigini e portare una persona a fare anche grandissimi peccati, per avere, tra cui rubare. Ecco, nessuno questo, ma non è un fatto automatico, né possiamo, come dire, appiccicare a priori le etichette. Quello è ricco è il demonio, quello è povero è un santo. Nel Vangelo non c'è nulla che giustifichi una prospettiva del genere. Quindi, di per sé, e questo lo trovate nel Catechismo della Chiesa Cattolica, le ricchezze, e con ciò si intende il denaro e i beni materiali, sono doni di Dio che devono servire al giusto ed equo soddisfacimento dei bisogni materiali propri e altrui, nulla di più e nulla di meno. Se è vero, infatti, che non si deve vivere per i soldi, non è tuttavia meno vero che senza soldi non si vive, cioè che i soldi servono per vivere. Tenete presente che la Chiesa nel corso della storia ha reiteratamente condannato l'eresia, oggi a mio modestissimo avviso più che strisciante e neanche troppo larvata in più di qualche ambiente ecclesiale, chiusa parentesi, del pauperismo. Cosa afferma il pauperismo? Il pauperismo afferma che le ricchezze sono un male di per sé. E che quindi chiunque non avesse abbracciato la povertà volontaria sarebbe stato dannato. E il fatto stesso di essere ricchi costituisce peccato. Allora, qui attenzione, vi faccio dico prima di un'ultima cosa, prima di commentare. Si badi che al tempo dei grandi movimenti mendicanti medievali, se uno studia un po' di storia della Chiesa, guardate che San Francesco e San Domenico sono stati gli unici due che sono sfuggiti dalla condanna di eresia, perché tutti gli altri, Pietro Valdo, gli Albigesi, i Catari, solo per fare qualche nome, ma ce ne sono altri minori, sono stati tutti dichiarati eretici, tutti. Per questo estremismo radicale nell'imporre queste dottrine. Indubbiamente la povertà evangelica è un consiglio. Qui stiamo parlando di comandamenti, la povertà è un consiglio. Cosa vuol dire un consiglio? Un consiglio vuol dire che il Signore ad alcune persone, non a tutti, consiglia e non obbliga una scelta migliore e meno rischiosa e più elevata ai suoi occhi rispetto a quella comune. Però dire che chi non fa la povertà va all'inferno è come dire, l'altro consiglio che è quello della castità, chi si sposa va all'inferno. O è come dire, chi non si sottopone all'obbedienza volontaria anche in ciò che esula da ciò che Dio strettamente ci ha chiesto, che è la materia delle nostre conversazioni, cioè la catechesi, va all'inferno. Ma questo non è vero, questo qui. Sarebbe come dire, chi non c'è il padre spirituale a cui è soggetto a lui con un voto di obbedienza, va all'inferno. Ma dove sta scritto questo qui? Santa Teresa d'Avila, monaca carmelitana, diceva chiaramente: quello che ci chiederà Dio quando ci troveremo alle porte del paradiso, se si metterà davanti il decalogo. Se l'hai osservato, sei salvo. Se non l'hai osservato e non ti sei pentito, sei dannato. Finito. Niente di più e niente di meno. Sono 10 parole. Non sono né 11 né 9. Quelle. E basta. D'accordo? Quindi il Vangelo ammonisce anche con gli episodi, vi ricordate, il giovane ricco, per esempio. Il ricco epulone. Oppure la parabola di 2 o 3 domeniche fa, il ricco stolto che pensa soltanto ad ammassare i beni senza preoccuparsi di fare del bene con i beni e tenendoli soltanto per sé, muore la notte seguente senza aver fatto neanche un'opera buona. Tutti questi episodi sono delle esortazioni, delle ammonizioni a guardarsi dal pericolo che il bene della ricchezza, per l'uso cattivo che l'uomo ne fa, diventi un male. Quindi che se ne faccia un uso non benedetto da Dio, ma non è mai la condanna della ricchezza in se stessa né del ricco in quanto tale. E abbiamo per esempio di Lazzaro. Quindi attenzione, perché c'è una distinzione fondamentale tra consigli evangelici che non sono richiesti a tutti, d'accordo? E che non sono condizioni imprescindibili per andare in paradiso. E comandamenti. Quindi l'estremismo, il rigorismo è sempre da guardare con sospetto. Così come quelli, vi ricordate quando Gesù redarguisce i farisei, che filtrano il moscerino e ingoiano il cammello. Cioè c'è una differenza, cioè 100 miliardi di miliardi di miliardi di peccati veniali non fanno un peccato mortale, uno. È certo che tu devi sempre parlare contro il peccato in quanto tale, perché è anche una bugia di scusa, come vedremo, non bisogna dirla perché offende Dio. È una trasgressione dell'ottavo comandamento, per quanto lieve. Insomma, l'adulterio è più grave di una bugia di scusa, eh? Se tu fai 100 miliardi di bugie di scusa, non hai fatto neanche un miliardesimo del delitto di adulterio. Quindi bisogna sempre tenere molto molto chiari questi discorsi. Quindi, questo è il primo punto da tenere chiari, no? Quindi, i beni temporali sono beni e il pauperismo è un'eresia. Stiamo cercando di introdurci a questo comandamento. Secondo punto, la proprietà privata è lecita e corrisponde ai disegni di Dio sulla destinazione dei beni. Quindi i comunisti che affermano l'illiceità della proprietà privata in quanto tale, e anche alcuni pseudo teologi cattolici che vorrebbero giustificarlo teologicamente, sono nell'errore. Non è la proprietà privata un male gravissimo da abolire, assolutamente, perché il Catechismo della Chiesa Cattolica recita testualmente, numero 2402, l'appropriazione dei beni è legittima al fine di garantire la libertà e la dignità delle persone, di aiutare ciascuno a soddisfare i propri bisogni fondamentali e i bisogni di coloro di cui ha la responsabilità. Ovviamente tale appropriazione deve consentire che si manifesti una naturale solidarietà tra gli uomini. Quindi, secondo la legge di Dio, si possono possedere a titolo di proprietà personale dei beni per tre motivi. Garantire l'esercizio della libertà. Secondo, la dignità della persona, un'esistenza, come dire, decorosa e degna dell'essere umano. Terzo, la soddisfazione dei bisogni fondamentali. I soldi servono per vivere, quindi se mi ci compro una casa, se mi ci compro una macchina, se mi ci compro un computer di questi tempi, che il computer non si può considerare oggi per esempio un bene, come dire, di lusso, un bene accessorio con il mondo in cui viviamo. Anche la televisione per certi aspetti, cioè, o un telefono. Cioè, viviamo nel 2013, d'accordo? Non viviamo nel 1500. Ecco. Quindi le cose necessarie alla vita in questo mondo, proporzionate tra l'altro allo status, alla condizione sociale, alla professione che uno fa, si possono prendere. E al tempo stesso, lo vedremo, avere sempre la consapevolezza che i beni vanno amministrati avendo un occhio di riguardo per chi si trova in situazioni di difficoltà, che è quella che il Catechismo della Chiesa Cattolica chiama la solidarietà. Ma la solidarietà è molto diversa dall'esproprio proletario, anche se è grossa responsabilità davanti a Dio, perché la solidarietà si fonda sull'acquisizione personale del valore dei beni e sulle esigenze della carità che il consorzio umano richiede. Quindi io volontariamente e con gesto libero, personale e umano destino parte dei miei beni a chi è privo del necessario, non che arrivano e mi espropriano per forza. Non si può fare questa cosa, secondo la legge di Dio, eh? Terzo punto, che appunto bilancia il secondo, perché la proprietà privata non può diventare appropriazione indebita e monopolio assoluto come dire, accaparramento egoistico dei beni a discapito del prossimo. Allora, perché Dio ha creato i beni materiali per tutti. Sono i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa quelli che vi sto dicendo, eh? E non perché siano appannaggio di pochi eletti per i loro egoistici bisogni e interessi. Quindi, in questo senso, l'uomo ricco deve considerarsi, e tale è realmente, una sorta di amministratore delegato della divina provvidenza. Quindi, se ha del soprappiù, è lui stesso che liberamente e gioiosamente deve amministrarlo per sovvenire i bisogni e le necessità di chi è privo del necessario. È questo principio morale, tra l'altro, che rende legittima l'equa tassazione da parte degli stati. Attenzione, l'inosservanza di questo principio morale o la malosservanza di questo principio morale rende iniqua anche una tassazione non eccessiva. Questo da un punto di vista morale. Fondamentalmente la tassazione da parte di uno Stato si fonda sul principio che tutti devono contribuire al bene di tutti e quindi lo Stato preleva parte dei beni del cittadino per redistribuire in maniera equa e per fini buoni redditi e ricchezze. Se si facesse soltanto questo, si facesse in maniera equa, sarebbe nessun problema. Allora, anche su questo punto è bene citare il Catechismo della Chiesa Cattolica a conclusione di questa prima puntata introduttoria, ragazzi. Leggo ampi stralci dei numeri 2403 e 2404, che dicono: il diritto alla proprietà privata acquisita o ricevuta in giusto modo non elimina l'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità, principio che si evince da una lettura teologica attenta dei racconti della creazione. L'umanità è stata data all'uomo, non a un uomo, ma all'uomo in quanto capostipite del genere umano, e quindi a tutti in maniera equa. La destinazione universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio. L'uomo, usando dei beni creati, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri. La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede, questo è il catechismo, un amministratore della provvidenza, per farlo fruttificare e spartirne i frutti con gli altri e, in primo luogo, ovviamente, con i propri congiunti. Sta dicendo che chi ha la famiglia, i primi destinatari, come dire, della sovrabbondanza di beni personali che si hanno e che si devono avere, perché la famiglia deve essere mantenuta, sono chiaramente i familiari, il coniuge e i figli, principi questi per la verità tutelati anche dall'ordinamento giuridico attraverso, le norme sulla successione legittima senza testamento. Queste sono cose ovvie e comuni. Ecco. Quindi, volendo riassumere, i beni materiali sono beni, non sono mali, possono essere posseduti a titolo personale attraverso la proprietà privata, tenendo presente però che i beni nella volontà di Dio sono da essere messi a disposizione di tutti. E quindi chi dovesse eccedere in un possesso di beni che vada largamente o mediamente al di là di quello che è necessario, sappia che è tenuto, ed è tenuto, a, come dire, prestare le mani al Padre Eterno per esercitare la grande virtù della liberalità e della benevolenza e dell'elemosina in alcune circostanze. E il fondamento ultimo di questo non è nemmeno la virtù teologale della carità, ma quella cardinale della giustizia, perché perché se i beni sono stati distribuiti a tutti, è giusto che chi ne ha per misteriose disposizioni dall'alto o per contingenti causalità della vita terrena che sono comunque guidate dalla divina provvidenza più del necessario, ne renda parte a chi di questo ne è privo. Capite però che il fondamento di questo è sempre l'esercizio della libertà della persona nel rispetto della dignità dell'uomo e di ogni uomo. Dalla prossima volta, se il Signore ci aiuta, posti questi principi che spero di essere stato chiaro nell'evidenziare, cominceremo a scendere un pochino nel merito e a vedere come e quando effettivamente si viola il comandamento del non rubare. Vi do appuntamento alla prossima settimana, se riterrete. A tutti, Ave Maria.